mi trovo nell'Università di Betlemme, dove stiamo portando avanti un programma di un master in cooperazione e sviluppo, un master che vuole preparare proprio dei giovani palestinesi a poter lavorare per le organizzazioni non governative palestinesi, ma anche per le organizzazioni internazionali. Quindi diamo della formazione a questi giovani palestinesi. Ebbene, qui all'università proprio oggi c'è una manifestazione che ricorda il defunto presidente Arafat, è una manifestazione molto composta, molto tranquilla, si respira un'aria, direi, di mestizia da un lato, perché si rendono conto che il loro presidente è morto, però è anche altrettanto vero che ho l'impressione a livello proprio personale che se è vero che il futuro è incerto, le elezioni che ci si terranno il 9 gennaio prossimo sono assolutamente incerte, però è come se si fosse aperto uno spiraglio per il processo di pace. C'è comunque da un lato la mestizia e dall'altro lato però c'è fiducia che qualcosa possa cambiare. Certo che questa è una terra che ha visto purtroppo molte guerre, troppe guerre, e quindi è sempre troppo prematuro dare dei giudizi per il futuro. Le attività stanno riprendendo, oggi sono riprese le scuole, anche le attività commerciali sono riprese, e quindi, ripeto, questo è un buon segno. Quello che è appunto il ruolo della cooperazione internazionale, beh, è chiaro, è un ruolo fondamentale. Ho un'impressione che in questo momento stanno arrivando parecchi fondi per la Palestina, e questo è in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo in tante altre parti del mondo, dove purtroppo i fondi, le risorse finanziarie scarseggiano, penso alla povera e abbandonata Africa per esempio. Qui stanno arrivando dei fondi, c'è un grosso interesse da parte dei donatori, compresa la cooperazione italiana, l'Unione Europea. Oggi abbiamo fatto un incontro con lo UNDP, quindi con le Nazioni Unite, perché probabilmente pensano che ci possa essere la possibilità della pace, e che quindi se si costruirà la nazione palestinese, lo Stato palestinese, è chiaro che la Palestina avrà particolarmente bisogno, soprattutto nella fase iniziale, di un supporto finanziario e economico, ma non solo, io credo un supporto anche proprio di idee, di una cooperazione, di un partenariato profondo fra società civili anche del nord e società civili del sud. Questo è il motivo per cui noi del VIS siamo qui in Palestina, siamo qui per portare avanti i nostri progetti, li vorrei enumerare velocemente. Il primo è il forno, stiamo sostenendo il forno dei Salesiani, pane per Betlemme, e quindi è un progetto di assistenza alimentare per le famiglie più povere di Betlemme e dei villaggi intorno. Poi c'è una scuola tecnica che prepara giovani nei campi dell'elettronica, dell'elettrotecnica e della meccanica, quindi sono giovani che poi possono entrare a far parte della nascente industria palestinese. Poi abbiamo un centro di formazione all'artigianato artistico, in particolare quello presepistico, quindi il lavoro del legno d'ulivo, della ceramica, ma anche della madreperla. Operare bene con, e quindi con professionalità a favore della popolazione, questo è l'importante, cioè la gente riconosce molto bene se tu sei, come dire, al di sopra delle parti e vuoi il bene delle persone. La gente lo percepisce a livello di animo, ma lo percepisce anche a livello della concretezza dei fatti. Ma per noi la politica ha un livello più alto, è l'organizzazione della città, ma è l'organizzazione della convivenza umana. E quindi è su questo che noi cerchiamo di lavorare molto. Le organizzazioni non governative devono essere non governative, nel senso di non appartenere a nessun governo, ma non devono nemmeno appartenere alle fazioni, altrimenti si diventa ideologizzati, e questo a medio e lungo termine diciamo toglie quell'aspetto di neutralità che fa invece delle organizzazioni non governative veramente un asset molto importante per la cooperazione allo sviluppo.